Ad alta voce. Valentina Carnelutti legge L'ora di tutti di Maria Corti. Undicesima puntata. Quando fummo a letto e alla luce del lume a olio acceso davanti all'immagine della Madonna del Mare, le ombre del letto e delle sedie cominciarono ad andare e venire lungo i muri. Antonio si fece vicino vicino e, stringendomi fra le braccia con i muscoli tesi, disse a voce bassissima: «Idrusa, che?» feci io. «Ma tu sei sicura che mi vuoi bene?» «Se ti voglio bene, Madonna Santa, che dici, Antonio?» E insieme sentii che una cosa dentro di me affondava come un sasso buttato nell'acqua. Ubbidì ad Antonio e non uscii a lavorare sui gradini di casa. «Bisogna che non lo veda più», mi dicevo. «Devo stare tutto il vespro seduta in cucina». Poiché avevo una rete da aggiustare, la distesi sul tavolo e cominciai il rammendo. Ma quando sentii le donne fare silenzio e le scarpette dell'ufficiale battere sul lastricato della via, mi precipitai alla finestrella della cucina e mi nascosi dietro il vaso di basilico a guardare. Mi pareva che lui trasformasse la nostra povera strada nella piazza di Sant'Oronzo a Lecce. Poi, lasciandoci lì, volasse all'angolo della strada in cerca di meravigliose avventure e quella fosse per lui la vita. Aveva mani sottili, tanto diverse da quelle dei pescatori che sempre erano squamose, ricordavano spine di pesci, interiora di pesci e altre lordure. Era un bel fatto. Ogni giorno facevo voto alla Madonna di non andare alla finestra. Mi rinforzavo col passare delle ore nell'idea di non andarci, sicché al vespro mi sentivo sicura, sicurissima che non sarei andata. E invece eccomi lì, con la fronte appoggiata allo stipite della finestrella. Ma perché, io dico, uno vuol fare una cosa, lo vuole proprio e tutto a un tratto ne fa un'altra? La finestrella ora mi dava l'idea del Malepasso dopo Porto Badisco, dove al vedere il precipizio di rocce altissime e infine laggiù l'acqua verde trasparente ancora alle profondità del mare, si sente la testa che gira e una spaventosa voglia di buttarsi giù a capofitto. A questo punto Antonio mutò l'orario della pesca e un giorno venne a casa al vespro. Si mise lui sui gradini di casa ad aggiustare le reti. Quando l'ufficiale arrivò, io vidi la scena dalla finestrella e come me la videro ad occhi sgranati tutte le donne della via. Appena l'ufficiale s'accorse che sui gradini c'era Antonio, rallentò il passo e prese l'andatura di un gatto guardingo e pronto a spiccare il salto. Antonio, depositate con mosse lente le reti sul lastricato alla sua sinistra, si alzò, scese il secondo gradino di casa e rimase in piedi immobile sulla via, paonazzo, con le mani lungo i fianchi strette a pugno. L'ufficiale mise la destra sull'elsa della spada. «Dio mio», pensai, «Antonio avrà il coltello, adesso si ammazzano». Allora dall'angolo dove la strada girava verso la piazzella spuntò Cola Mazzapinta. Si mise fermo a una ventina di passi da noi con le braccia conserte. Dietro a lui spuntò Nakira che gli si mise accanto. Passò forse un minuto e comparve Antonello. Anche lui si fece avanti e si mise a braccia conserte di fianco ai due. Poi fu la volta di Cristoforo Rio e di Vincenzo Pasca. Infine spuntò Mastro Natale e si avvicinò al gruppo. Stavano tutti e sei fermi e guardavano l'ufficiale che sfoderò la spada. Antonio non si mosse. Alzò solo la faccia rossa di collera in maniera che il mento sporgeva nell'aria. Le labbra si aprirono lasciando vedere i denti di sopra fissi su quelli di sotto al modo di un lupo dei boschi quando muove all'assalto. I pescatori fecero tutti insieme qualche passo avanti, fissando l'ufficiale, e da capo si fermarono. Le donne erano inchiodate sugli usci. L'ufficiale per qualche momento guardò i pescatori, guardò Antonio, s'era sbiancato in faccia, fece un salto indietro. Allora la vecchia moglie di Mastro Natale mosse in aria la corona del rosario e gridò con angoscia: «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti!» «Amen!» si udì il coro delle donne. A quel grido Antonio si scosse, fece un passo indietro, riprese l'immobilità di prima. L'ufficiale lo guardò, si voltò velocissimo su se stesso e fuggì nel vicolo che attraversava la nostra strada. Quella sera i pescatori furono contenti di Antonio e di come si era saputo trattenere. Da allora l'ufficiale non venne più a fare passeggiate nella via dei pescatori ed io fui sicura che non lo avrei mai più incontrato. Antonio cominciò ad ammazzarsi di lavoro. Pescava di giorno e di notte e quando non pescava andava sul carretto di compare Alfio nei paesi dell'interno a vendervi la frittura di scoglio. La sera, stanco morto, si addormentava persino mentre io tagliavo e salavo la giuncata, il suo cibo preferito che di giorno andavo a cercare nelle masserie fuori Otranto per fargli la sorpresa. Venne il tempo della pesca grande, quando tutti i pescatori partivano in direzione di Brindisi o di Castro e mancavano 8-10 giorni e anche più se la mareggiata li bloccava al largo. Quando tornavano le barche erano cariche di pesci luccicanti al sole come pietre preziose e i capi barca in piedi fra le ceste con le braccia conserte sembravano dei re. Ma ecco che Antonio venne fuori a dire che lui non andava. «Ma se sei capo barca», dicevano i pescatori. «Dovete portare pazienza», lui rispondeva, «ma questa volta non vengo». «E perché?» «Perché no». Più di questo non gli cadeva di bocca, ma tutti sapevano che non voleva andare alla pesca grande per me, cioè per paura dell'ufficiale spagnolo. «Che ti ha preso?» insistevano. «La donna si è comportata bene, è rimasta chiusa in casa e continuerà a restarci, le faranno compagnia le altre donne. Si è mai visto da che mondo è mondo le barche sparigliate così, senza una vera ragione?» «Io non vengo», lui ripeteva. I pescatori scuotevano il capo. Un giorno, mentre ero sola, sentii battere all'uscio e mi trovai davanti Mastro Natale. Il vecchio, entrato in cucina, si sedette deponendo sul tavolo il berretto. Disse: «Buona sorte». «Buona sorte», risposi. Mise le mani una nell'altra e mi guardò. «Siediti. Quanti anni hai, Drusa?» 19. «Auguri», disse tranquillamente. Io avevo il cuore in gola. «Da quanto sei sposata?» «Lo sapevo, piccina, ma me lo sono scordato». «Da 2 anni». «Auguri. E vuoi bene ad Antonio?» «E come no?» dissi con foga. «Non c'è proprio niente che non va». «Niente». Io mi passavo nervosa una mano sui capelli. Lui parlava lento, come camminava. «Allora, vuoi bene ad Antonio?» ripeté. Tacque, guardò attorno nella stanza, disse: «Sai com'è il fatto, vero? Antonio fatica e fatica, non c'è giorno e notte per lui, non c'è osteria, sempre pescare, sempre vendere pesci per fare la casa nuova, e ora che c'è davanti il guadagno 10 volte tanto della pesca grande, lui non vuole venire. Come te la spieghi tu la cosa?» «È geloso», risposi. Nel silenzio che seguì, io non provai più soggezione, ma una grande voglia di parlare, tanto che mi scossi con tutto il corpo sulla sedia che scricchiolò nel silenzio. «Proseguiamo», lui disse. «Io non ho fatto niente», risposi, «però devo aver colpa lo stesso». «Quale colpa?» «Io non sono come le altre». Tacque. «Le altre sono meglio di me, ma a me la loro non pare vita. Di che cosa sono contente? Solo di vivere. Io così non sono contenta per niente e questo non riesco a mettere insieme, che loro sono meglio di me e che l'idea di essere come una di loro mi dà la voglia di buttarmi giù dal male passo». «Le hai dette queste cose ad Antonio?» «Eh no, le dico a mia sorella». «E lei che ti risponde?» «Che manco di cervello». «Dite manco di cervello io?» Mi guardò sopra pensiero. «È che non si sa dove può andare a sbarcare». Prese in mano il berretto e cominciò a girarlo fra le dita. «Perché alla fine, figlia mia, il marito c'è per fargli da mangiare e lavargli i panni, la casa per tenerla pulita, le reti per rammendarle. Questa è la vita». «Mastro Natale», dissi, «io quello spagnolo l'ho incontrato sulla piazza della chiesa e invece di andarmene mi sono fermata a parlare». «Ti piace quell'uomo?» domandò guardandomi fisso. Era difficile rispondere. «Non so», dissi. «Forse sì, ma io non volevo far torto ad Antonio. Io voglio bene ad Antonio, non so perché mi sono fermata». «Hai fatto male, quello si è messo a cercarti». «Io non lo voglio più vedere», dissi sconvolta. «Io mi faccio le provviste e non esco per tutto il tempo della pesca grande, lo giuro davanti a Dio», e mi feci tanti segni di croce uno sull'altro. «Diteglielo anche voi, Mastro Natale, ditegli che me ne starò chiusa in casa». Mastro Natale si alzò, mi fissò ancora una volta. Aveva degli occhi belli che aiutavano a guardarli. Si avviò all'uscio, giunto là si voltò, si frugò nella barba e disse: «Ma tu non pensare sempre, lavora come le altre». Quando Mastro Natale se ne fu andato e io ebbi richiusa la porta, mi accucciai presso il camino, misi la testa fra le mani e scoppiai a piangere. Non mi riusciva di sapere perché piangevo, avevo solo una grande desolazione nell'anima, ma mi sarei data dei pugni per non averla, finché dopo un'ora sfinita mi addormentai. Così mi trovò Antonio, addormentata e con gli occhi rossi di pianto. Si sedette accanto a me in silenzio col capo chino. Poi prese ad accarezzarmi i capelli, a dire che stessi tranquilla, che sarebbe andato alla pesca grande e sarebbe tornato in tempo per portarmi in piazza alla festa dell'Assunta a vedere le luminarie, a comperare per me una collana, un bracciale, tutto quello che avessi voluto purché non piangessi. Quando i pescatori lasciarono Otranto e si allontanarono sul mare, cominciò nella nostra strada una vita diversa, di sole donne. Tutte cucinavano per sé e per i figli, lavoravano, ma non mantenevano più gli orari fissi di prima e anche il cucinato cambiava, si faceva assai spiccio, sicché le donne erano libere di farsi visita da una casa all'altra e di raccogliersi in cerchio davanti a quella di Filomena, la moglie di Mastro Natale. Mia sorella veniva tutti i giorni a trovarmi, e anche le altre donne venivano, ammiravano i ricami, davano consigli, e il tempo passava senza nessuna speciale novità, almeno di giorno. Sì, perché la notte per me le cose andavano diversamente. Nei sogni, dico, che al mattino fuggivano via e mi lasciavano sorpresa sulle oscure cose dell'anima. Una notte sognai di essere a letto e di fare l'amore con Antonio, che mi abbracciava stretta e mi baciava, ma tutto a un tratto quello che mi abbracciava non era più Antonio, ma l'ufficiale spagnolo, del quale fatto nel sogno io mi trovavo tutta felice. Svegliatami mi domandai se c'era colpa, se si faceva peccato anche nei sogni. Era tempo di bellissima luna e le donne dopo cena si sedevano sulla porta a godere il fresco. Anche questo accadeva solo durante la pesca grande, perché di solito dovevano preparare la merenda che gli uomini portavano con sé l'indomani nella barca. Si riposavano ed avevano umore buono e tranquillo le donne senza i mariti. Spesso raccontavano di quando erano ragazze, con voce dolce e malinconica. Passarono i giorni, finché ne mancò uno solo alla festa dell'Assunta, ma i pescatori non tornavano. C'era tramontana grossa. Il mare schiumava, le onde dopo una lunga avanzata scoppiavano spandendosi sulle rocce, mentre le poche barche rimaste al porto battevano a intervalli contro il molo. Il cielo si abbassava con moti bluastri sulla terra. Ero uscita nel cortiletto per prendere acqua dalla cisterna. Il vento mi gonfiava le maniche della camicia e faceva della mia gonna un pallone, incapricciandosi a mandarlo per aria, quando arrivò mia sorella che mi faceva la spesa affinché io non uscissi di casa. «Al diavolo il vento!» dissi io pensando alla festa. «Non finisce più questa tramontana». Lei alzò le spalle, entrammo in casa. «Tieni, cucinati», disse mettendo sul tavolo un sacchetto pieno di cozze. Ma io non avevo voglia di mangiare. Volevo che finisse la burrasca, che Antonio tornasse. M'ero stancata di fare la sposa chiusa in casa che aspetta il marito. Ne avevo abbastanza, la cosa mi era venuta a noia. Così quella mattina m'ero sfogata a disfare una maglia e coi pezzetti di filo corti allineati sul tavolo avevo messo insieme dei pupazzetti. «Che è questo?» disse mia sorella quando li vide. «Guardali, non si capisce?» «È una cosa da stupidi», disse mia sorella. «Non potevi ricamare invece?» «Sempre ricamare. Tu ti vuoi troppo bene, figlia mia». «Senti», dissi, «se non viene Antonio mi porti alla festa». «Alla festa?» Mia sorella si sbigottì. «Ma non hai giurato che non uscivi di casa fino al ritorno di Antonio?» «Lui mi avrebbe portato alla festa». «Idrusa, non cominciamo. Con questo mare Antonio non può tornare e tu lo aspetti qui. 5 minuti soli, attraversiamo la piazza, guardiamo le luminarie e ce ne torniamo». «No». Dopo un momento di silenzio, mia sorella disse: «Io non so come puoi pensare alla festa mentre Antonio balla in mare con questa tramontana». Valentina Carnelutti ha letto L'ora di tutti di Maria Corti, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Chiara Valerio e Filippo Travaglio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.